te t'ha fatta, quale mamma te t'ha fatta. Vuoi sapere come facette, vuoi sapere come facette. Ben pastasti carne belle, ben pastasti carne belle. Tutte chille che mettete, tutte chille che mettete. Niente rose cavucciato, niente marta l'ho mischiato. Latte rose, rose latte, te facette in coppa fatte. Non c'è bisogno a zingara, battivi la conce. Come ti fatto mamma te, io faccio meglio a te. E te fa sta bocca bella, e te fa sta bocca bella. Non servete stesse dose, non servete stesse dose. Vuoi sapere che ci mettete, vuoi sapere che ci mettete. E mo te dica tutte cose, mo te dica tutte cose. No panare chine chine, tutte frave la ciardina. E miele, zucchero, cannella, te faccio sta bocca bella. Non c'è bisogno a zingara, battimi una conce. Come ti fatta mamma te, io faccio meglio te. E pe fasti trezze d'oro, e pe fasti trezze d'oro. Mamma toia se pezze in tete, mamma toia se pezze in tete. Bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta. Vuoi sapere che c'è servette, vuoi sapere che c'è servette. Una miniera sana sana, tutta fatta filigrana. C'è volete per sti trezze, che fa sano c'è ste prezze. Non c'è bisogno a zingara, fattivi una conce. Come ti fatta mamma te, io saccia meglio te. Come ti fatta mamma te, io saccia meglio te.